Prendo la mira, ma con te 22 pollici sembrano mia. Cado nelle sabbie mobili, tu non reggi il peso del discorso. Toccheremo il fondo, capirò chi sei. Litigare a Tenerife è un colpo di fucile, tu mi ferirai. Rom pom pom, abbiamo chiuso 911, mi serve aiuto. Tutte le sere mi chiedo se mi vuoi bene davvero. Stringimi più forte come una bandana, baciami la fronte come da bambina. Non vedevo l'ora ma direi mañana, mañana. Spegni la TV, papà, la TV. La TV, papà, la TV. Spegni la TV, papà, la TV. La TV, papà, la TV. Spegni la TV, papà, la TV. La TV, papà, la TV. Spegni la TV, papà, la TV. La TV, papà, la TV. Ho paura di te, delle lacrime blu, i tuoi occhi blu ray. Ho capito perché non mi guardano più, non mi guardano mai, mai, mai. E vorrei, e vorrei, e vorrei. Nelle tue onde annego, ma non ti odio davvero. Stringimi più forte come una bandana, baciami la fronte come da bambina. Non vedevo l'ora ma direi mañana, mañana. Spegni la TV, papà, la TV. La TV, papà, la TV. Spegni la TV, papà, la TV. La TV, papà, la TV. Spegni la TV,